Salva Danaio di Deborah Rosciani. Bentornati, buon inizio settimana a tutti da Deborah Rosciani. È partita lunedì scorso la procedura del nuovo decreto flussi che prevede l'ingresso in Italia di quasi 100.000 lavoratori stranieri. La cifra precisa l'abbiamo fornita anche settimana scorsa, 98.080. Abbiamo già dedicato giovedì, appunto della scorsa settimana, una trasmissione a questo argomento, ma oggi abbiamo ritenuto doveroso ritornare sul tema per le numerose domande che ci avete rivolto, anche per darvi un'indicazione importante. Oggi sull'argomento, come vi avevamo preannunciato, è uscita la guida pratica del Sole 24 Ore che spiega tutti i passaggi fondamentali che permetterà ai datori di lavoro che intendono impiegare queste persone come fare, appunto, che permetterà appunto di fare questo richiamo dall'estero e consentirà anche loro di appunto ottenere il permesso di soggiorno, i lavoratori naturalmente. La guida offre la preziosa opportunità di inviare domande ad un pool di esperti messi a disposizione dal Sole 24 Ore. La procedura la conoscete perché è ormai consolidata ed è quella tipica di tutte le guide che sono uscite fino a questo momento. Potete collegarvi al sito www.ilsole24ore.com/clickday, inviare le vostre domande sino alle 18 di questa sera. Troverete molte risposte sulle Sole 24 Ore di domani e nei giorni a seguire sul sito del Sole 24 Ore, appunto collegandovi all'indirizzo che vi ho appena dato. In questi giorni, intanto, come è partita questa procedura? Come vi abbiamo spiegato giovedì, è possibile registrarsi online sul sito del Ministero dell'Interno per scaricare l'applicativo necessario per compilare la domanda ed inviarla poi successivamente, un invio che sarà possibile in tre tranche a partire da lunedì prossimo 31 gennaio, giornata dell'arcinoto Click Day. Allora oggi ritorniamo a chiarire tutti, o speriamo quasi tutti, almeno i più importanti aspetti del decreto flussi 2010, con anche tutti quelli che sono stati un po' considerati aspetti problematici che si stanno verificando ai patronati e quei luoghi di assistenza, cioè chiamati a fornire un supporto ai potenziali datori di lavoro che stanno appunto compilando le domande e che lunedì prossimo si dovranno mettere lì presto davanti al PC pronti con il dito sul tasto invio per inviare questa domanda. Tra l'altro sarà proprio una gara, una corsa contro il tempo lunedì prossimo, ma insomma stamattina rifacciamo un punto della situazione per tutte le questioni rimaste in sospeso. È ritornata questa mattina, ci farà compagnia per la prima parte della trasmissione per fare un punto della situazione ad oggi la dottoressa Daniela Parisi, viceprefetto del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno. Buongiorno e grazie di essere ancora con noi a ridarci la vostra collaborazione, dottoressa. Buongiorno. Buongiorno a voi. E poi invece per li getteremo in pasto agli ascoltatori, Pino Guglia, responsabile servizio immigrazione per il patronato ACRI. Dottor Guglia, buongiorno. Grazie. Buongiorno a lei e agli ospiti. È un altro ormai affezionato ospite di Salva Danaio, Tommaso Siracusano, consulente del lavoro, che è uno degli esperti che il Sole ha messo a disposizione questa mattina per le domande che stanno arrivando attraverso il canale online, e tra gli autori della guida che esce oggi con il Sole insieme a Francesca Padure e ad altri esperti. Dottor Siracusano, buona giornata anche a lei. Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori e anche agli altri che intervengono alla giornata. Allora, tutte le modalità per interagire con noi: 800 24 00 24 è il numero verde che vi permette di intervenire in diretta. Se ci volete invece scrivere, potete utilizzare la modalità SMS 349 238 6666 o scriverci all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Borse contrastate stamattina le diamo molto velocemente perché avete già sentito gli aggiornamenti nel giornale radio. Il quadro vede positiva Londra stamattina, più 0,25%, negativa invece Parigi, meno 0,19%, Francoforte, meno 0,60%, Milano, meno 0,4%, euro su dollaro, 1,35,59. Mercato che si confronta con le numerose trimestrali che stanno arrivando, anche oggi dagli Stati Uniti ci saranno diverse società che comunicheranno i propri risultati. Abbiamo tra le altre American Express, se non ricordo male. Venerdì scorso è stata la giornata di General Electric, di Google, anche in questo caso un mercato che ha letto in maniera un po' contraddittoria i risultati di bilancio di Corporate America. E per quello che riguarda invece Piazza Affari, un'occhiata a quello che accade: Banco Popolare più 3% per il gruppo in pieno aumento di capitale, era partito molto bene stamattina ancora con un più 6%, mantiene il rialzo anche se adesso lo ha ridimensionato. Mediaset più 1,77%, Popolare di Milano più 1,77% lo stesso, Telecom più 1,60%, Campari più 1,56%, Snam più 0,79%, scende oggi di nuovo tutta la galassia Fiat. L'auto meno 3%, Industrial, -2,38%, Exor, -1,96%, e a far loro compagnia ci sono Buzzi Unice, -2,35%, Tenaris, -2,31%, Saipem, -1,88%. Peraltro, a parte le vicende domestiche, tutto il comparto auto oggi è in discesa in tutta Europa. Pensate che è un settore che teme l'arrivo della stretta monetaria dalla Cina, perché chiaramente ci sono timori che questa decisione che ormai nelle carte, cioè ormai è assodata, insomma, verrà presa ai primi di febbraio, c'è il timore appunto che la stretta monetaria cinese possa influire in maniera pesante sull'export appunto del settore automobilistico. Direi che possiamo lasciare la borsa, andare al tema di stamattina. Facciamo il punto sul decreto flussi. Manca ormai solo una settimana al primo Click Day previsto dal Decreto Flussi 2010 e per datori di lavoro e cittadini stranieri in attesa di regolarizzazione parte, nel vero senso della parola, il conto alla rovescia. Visto il numero chiuso di ingressi previsti, meno di 100.000, la velocità sarà infatti determinante per concludere con successo la procedura online, una corsa che si concentrerà in tre diverse giornate per altrettante categorie. Alle 8 di lunedì 31 gennaio partiranno le richieste per gli extracomunitari provenienti dai paesi con cui l'Italia ha precisi accordi diplomatici. La giornata di mercoledì 2 febbraio sarà riservata ai contratti di lavoro domestico per i cittadini degli altri paesi, mentre giovedì 3 sarà la volta della conversione del permesso per lavoratori con particolari contratti di formazione, ma anche di autonomi e subordinati di origine italiana residenti in una serie limitata di stati. Nel frattempo, i datori di lavoro possono continuare a registrarsi sul sito del Viminale e compilare la domanda online, oltre a verificare di essere in possesso di tutti i documenti necessari in vista della fase successiva di verifica e controlli. Ognuno potrà inviare la richiesta direttamente dal proprio PC, ma è prevista anche la possibilità di affidarsi ad associazioni, consulenti del lavoro e patronati. Mediazione che, proprio secondo questi ultimi, potrebbe rivelarsi svantaggiosa per i cittadini per via della logica ferrea del chi prima arriva, su cui è basata la procedura informatica. E intanto stamattina stanno chiamando molti lavoratori stranieri, questo ci genera anche qualche dubbio sulle modalità con cui sta avvenendo la comprensione appunto di questo decreto flussi. Magari ci andiamo adesso, però prima di tutto con la dottoressa Parisi un bilancio ad oggi sulle registrazioni sul sito del Ministero dell'Interno. Dottoressa Parisi, appunto, quali i dati più interessanti e soprattutto è possibile già stilare, come dire, una statistica sul tipo di domande da parte dei datori di lavoro che vi stanno arrivando? Quali sono i modelli più richiesti e più scaricati? Sì, allora, di nuovo buongiorno a tutti. Il totale dei moduli richiesti, gli ultimi dati sono nel mezzogiorno di oggi, quindi sono veramente gli ultimissimi. Abbiamo un totale di moduli richiesti, sono 78.506, le domande pronte per l'invio sono 31.531. Le domande pronte per l'invio sono appunto le domande chiuse, che quindi sono già pronte per i famosi tre giorni del Click Day. Per quanto riguarda i modelli, il numero dei modelli che sono più gettonati, ovviamente il lavoro domestico è sempre in pole position, abbiamo più di 65.000 domande, richieste di moduli per quel tipo di lavoro, siamo 65.477, il lavoro subordinato 10.856 e poi abbiamo numeri molto minori per quanto riguarda le conversioni, che sono in totale 1.600, sia come le date conversioni lavoro subordinato e lavoro domestico, e poi insomma le altre tipologie più specifiche, i lungo soggiornanti 185, le conversioni lavoro autonomo 53 e così via, insomma sono numeri molto minori. Benissimo, dottoressa Parisi, come lei sa, noi stamattina abbiamo chiamato anche un patronato proprio per farci spiegare dalla loro diretta testimonianza quali sono le perplessità relativamente al meccanismo messo in campo quest'anno per accogliere appunto questi lavoratori, quindi attribuire loro i permessi di soggiorno. Però quest'anno c'è anche da dire, lo abbiamo precisato anche la scorsa settimana, che il Ministero dell'Interno ha fatto veramente ogni sforzo possibile per poter intensificare, per poter fare in modo appunto che non si verifichi nessun intoppo di natura informatica, soprattutto lunedì mattina, quando tutta questa mole di domande partirà nello stesso medesimo istante. Certo, Noi abbiamo fatto appunto in modo tale, proprio con questo sistema del mini client, per fare in modo che tutte le domande, quelle che dicevo già pronte per l'invio, sono già acquisite dal server del Ministero. Quindi in quel momento, quando ci saranno i click day, l'invio non sarà un invio pesante come quell'anno del 2007 in cui sono stati trasmessi tutti i moduli, ma verranno trasmesse solamente i dati essenziali per recuperare la domanda già presente e per dargli l'ordine in cui il sistema acquisisce quella domanda, che è l'ordine importante perché è quello che poi farà fede per poter ottenere la quota prevista dal decreto stesso. Allora, le faccio sentire anche una domanda di un'ascoltatrice, dottoressa Parisi, così cominciamo subito a rispondere a quelli che sono ancora i quesiti in sospeso, perché evidentemente chi già ha avuto modo di registrarsi sul sito del Ministero dell'Interno e ha già compilato tutto correttamente la domanda e quindi è pronto, solamente l'unica cosa che deve fare è in una delle date prefissate appunto mettersi al computer, farla partire il più velocemente possibile. Evidentemente appunto non tutti ancora hanno completato questa parte della procedura. Sentiamo allora quali sono i quesiti che rimangono in sospeso. Sentiamo Laura da Monza. Buongiorno. Buongiorno Laura. Ascolti, io sono andata a un patronato qui a Monza, il patronato della CISL, perché ho una signora da far arrivare dall'Ucraina come badante per mia mamma. Sì. Poi farà anche qualche cosa in casa, che so io, ma insomma adesso non so. Il contratto di lavoro è quello, in sostanza. Ecco, penso di fare una cosa del genere. Viene dall'Ucraina. Quando sono andata mi hanno detto colf e badante il 2, sì. Poi io leggo la pagina del Corriere che è stata pubblicata una decina di giorni fa, se non sbaglio, e vedo che ci sono questi paesi privilegiati in cui è compresa l'Ucraina. I riservatari, sì. Ecco, e mi è nato il dubbio. Certo, dico, Laura aspetti lì, le faccio rispondere subito. Dottoressa Parisi, Laura può inviare la sua domanda il 31 a prescindere certo, dal contratto? Il 31 deve mandarla. Allora, ricapitoliamo un attimo, il primo giorno, il 31, devono essere mandate le domande per tutti quanti i lavoratori extracomunitari ricompresi nell'elenco che è previsto nell'articolo 2 del decreto flussi. Per qualsiasi tipologia di lavoro, sia lavoro subordinato sia lavoro domestico. Il secondo giorno, cioè il 2, riguarda il lavoro domestico per tutte le altre nazionalità, ossia quelle nazionalità non ricomprese nell'elenco dell'articolo 2. Quindi, ripeto, la signora dovrà mandare la domanda il primo giorno, perché per l'Ucraina sono previste 1.800 quote. Ecco, dottoressa Parisi, mi viene così una curiosità. Nel momento in cui Laura si mettesse adesso a fare la pratica di registrazione presso il sito del Ministero dell'Interno, inserisse i dati di questa persona appunto che vuol far venire dall'Ucraina, il meccanismo presso il sito del Ministero le fa già individuare il fatto che questa lavoratrice arriva da un paese che è un paese riservatario e che pertanto ha la priorità nell'inoltro della domanda, che può farla lunedì mattina il 31? Glielo dice il sistema? No, lo deve sapere. Ovviamente il sistema acquisisce tutte le domande, dà le istruzioni giuste e corrette per dire all'utente quando dovrà mandare la domanda. È ovvio che se lei la manda giustamente il 31 viene ricevuta automaticamente perché rientra tra quelle tipologie. Se la manda e sbaglia il 2 ovviamente viene sempre accolta perché dal 31 in poi tutte quante le domande delle nazionalità privilegiate vengono comunque certo. accolte perché il sistema per loro è partito. Però, noi diamo l'informazione diciamo il più possibile puntuale, nel senso che sul sito c'è l'indicazione di quali sono le nazionalità del giorno preciso. Io spero che e sono convinta che le associazioni di categoria, i patronati siano altrettanto diciamo precisi nel dare l'informazione. Infatti in questo caso non è accaduto, quindi le è venuto il dubbio, ascoltate, ci ha chiamato noi. Io adesso è chiaro che tiro un po' l'acqua al nostro mulino, la guida di stamattina è di una chiarezza esemplare, per cui per tutti coloro che avessero dei dubbi possono davvero trovare tutte le informazioni, vi potete anche collegare sul sito del Ministero dell'Interno e anche lì trovate tutto quello che vi serve, i patronati sono stra informati, in questo caso purtroppo c'è stata un'eccezione. Dottoressa Parisi, devo salutarla perché sono già fuori tempo massimo per la prima pausa, grazie, a presto, magari ci risentiamo anche settimana prossima, non certo, è detto. Va bene, d'accordo. Buona giornata, grazie e noi ci risentiamo tra pochissimo. Eccoci ritrovati a Salvadanaio che, come promesso, fa il punto sul decreto flussi, prendendo a spunto anche il contenuto della guida pratica che esce oggi con il Sole 24 Ore, immigrati e lavoro. 100.000 posti in palio nei click day, anche se si calcola già che le registrazioni, come vi abbiamo spiegato all'inizio, presso il sito del Ministero dell'Interno, che consentono ai datori di lavoro di compilare appunto la domanda per richiamare dall'estero potenziali lavoratori, appunto queste registrazioni stanno andando avanti. Si calcola che nella giornata del click day, il 31, potrebbero essere inviate almeno 400.000 domande, appunto per tentare quindi di ottenere almeno una di queste 100.000 assunzioni possibili di lavori extracomunitari. Sono dati appunto che fornisce stamattina il Sole 24 Ore. Abbiamo sentito poco fa il viceprefetto Daniela Parisi del Dipartimento per le Libertà Civili e Immigrazione. Adesso continuiamo a rispondere alle vostre domande con un esperto del Sole che sta già rispondendo peraltro alle domande inviate al sito del Sole, Tommaso Siracusano, consulente del lavoro, e Pino Guglia, responsabile servizio immigrazione per il patronato ACRI. Comincio con lui per così chiedergli magari un commento rispetto al caso che abbiamo sentito nella prima parte del programma, dottor Guglia. Insomma, un patronato che non sapeva che per esempio l'Ucraina fosse un paese riservatario. Adesso non perché lo debbano sapere tutti, non lo sapevo neanche io, l'ho appreso stamattina. Sarà stata una svista di questo patronato, ma per voi... Io mi auguro che sia una svista della collega del patronato, Ina, perché comunque oramai sappiamo tutti che nel primo giorno, appunto come diceva già la dottoressa Parisi, vanno inviate oltre gli appartenenti, i lavoratori appartenenti a determinati paesi cosiddetti privilegiati, anche tutte le categorie del lavoro, quindi compreso anche le colf. E già i dati che ha dato la dottoressa Parisi ci indicano che in realtà su quei 52.000 e tot che saranno inviati il primo giorno, il 31 gennaio, credo che l'80% riguardi proprio le colf e badanti. Ecco, dottor Guglia, proprio voi del patronato ACLI eravate stati quelli a sollevare qualche perplessità relativamente al sistema di compilazione e invio delle domande, eppure avevate detto, apprezzando tutte le innovazioni informatiche che sono state apportate quest'anno al sistema del Ministero dell'Interno. Quali sono i problemi più diffusi con i quali vi state confrontando in questo momento? Dunque, se è chiaro, scusi, una premessa rapidissima, certo. Noi abbiamo le perplessità più che altro dovute a una cautela per la grande scottatura che abbiamo preso tutti, associazioni e patronati, nel 2007, perché il sistema è calibrato sul cittadino, quindi sul singolo che invia al massimo 5 domande e non su chi, come le associazioni e patronati, che ne possono inviare un grande quantitativo, come si dice, a pacchetto. Quindi questo ha fatto nel 2007 ritardare tantissimo l'acquisizione delle domande inviate da noi, con grossi disguidi e grosso danno non solo alla nostra immagine ma anche ai datori di lavoro, che per noi sono le famiglie in realtà, che appunto hanno visto uscire fuori dalla cronologia che ha classificato le prime quote necessarie e quindi fuori anche dalla possibilità di acquisire quel lavoratore. I primi problemi, e quindi noi siamo andati molto cauti e con delle perplessità, nonostante tutte le novità che hanno apportato il Ministero e che la dottoressa Parisi ha rinnovato. E questa perplessità purtroppo ci è stata riconfermata perché nei primi tre giorni, 17, 18, 19 di gennaio, il sistema ha avuto dei grossi problemi. Abbiamo avuto dei momenti di totale blackout, per cui la perplessità ci dice che cosa succederà il 31 gennaio quando di nuovo tutti ci collegheremo allo stesso sito web per fare l'invio. Tra l'altro il sole no? Ipotizza che questo click day la mattina del 31 presto alle 8 durerà appena 100 secondi e lì veramente ci sarà una gara all'ultimo respiro. Guglia, sì. Chiedo scusa al dottor. Nel 2007 alle 8:09 era chiusa la cronologia delle quote previste. E quindi, vabbè, lo so, insomma, speriamo che non accada quello che è accaduto in quel momento, però insomma abbastanza come dire legittimo pensare che qualche altro inceppamento ci sarà. Adesso la Parisi l'abbiamo salutata, però poi magari ritorneremo con lei anche su questi aspetti. Allora, andiamo anche a Tommaso Siracusano prima di riaprire i microfoni ai nostri ascoltatori. Siracusano, invece gli esperti del Sole quali domande stanno arrivando, a quali state rispondendo? Buona giornata e grazie ancora. Buona giornata a lei. In effetti la corretta individuazione della data di invio della domanda è anche per quanto ci riguarda quella più ricorrente, perché questo, come abbiamo già detto, farà sì che sbagliando, come nel caso della precedente domanda, eventualmente la data, certamente avrebbe avuto, si perde l'opportunità, minori possibilità di accedere. Un'altra domanda che ricorre fra quelle qui nel forum del Sole 24 Ore è quella che riguarda cittadini extracomunitari non ricompresi nell'elenco di cui è l'articolo 2, che però non dovrebbero entrare in Italia come colf. Questi sono assolutamente esclusi, mentre dovendo andare, scusi il bisticcio di parole, per esclusione dalla lettura del decreto, questo non è diciamo chiaramente indicato. Quindi ad esempio il cinese che deve andare a lavorare in una fabbrica di tessuti non potrà essere assunto tramite questo, non potrà venire in Italia con questo decreto. Ho capito, e quindi vabbè, insomma, di aspetti ce ne sarebbero veramente molti da considerare. Non ultimo, e adesso ci andiamo, anche sul contratto di lavoro, perché non è che uno si iscrive sul sito del Ministero dell'Interno e promette un'assunzione a queste persone così in termini vaghi. Questo è un aspetto molto importante, ci sono tutti i dettagli assolutamente precisi che devono essere forniti appunto sul tipo di contratto di lavoro che va sottoscritto con la persona da richiamare dall'estero, e tutte le condizioni economiche appunto vanno fissate in maniera molto chiara. Qui appunto non si scherza, e su questo aspetto adesso ci andiamo, però andiamo anche agli ascoltatori. Allora, proprio per introdurre allora questo aspetto, sentirei Nicola dalla provincia di Catanzaro. Sì, pronto. Nicola, buongiorno. Buongiorno, il quesito era questo: il patronato aveva dei dubbi sulla data dell'invio della domanda. Io ho uno stagionale dell'Albania in agricoltura. Sì. Grazie, sentiamo allora che cosa ci dicono i nostri esperti. Giulia, intanto, allora l'Albania è un paese privilegiato. È un paese privilegiato, mi raccomando, i patronati non hanno dubbi sull'invio, c'è stata qualche piccola perplessità legata a qualche collega di qualche altro patronato, però l'Albania riguarda, rientra nel primo giorno. Però il fatto di essere uno stagionale, quindi non è un contratto a tempo indeterminato, questo cambia la data o è ininfluente? No, questo è un influente, perché comunque rientra nel primo giorno. Quindi questo, quello che conta in questo caso è il paese dal quale si intende chiamare appunto il lavoratore straniero. Qualsiasi tipologia di lavoro. Perfetto. Nico da Udine invece ha un'altra curiosità. Nico, buongiorno. Buongiorno a voi, intanto vi ringrazio e complimenti per la trasmissione. Grazie. La mia domanda diciamo è semplicissimo, siccome avevo sentito anche l'altra puntata che avete fatto, praticamente le quote territoriali vengono distribuite dopo aver avuto le domande, no? Se non sbaglio. Sì, però credo che siano già fissate. Sì, avevo sentito che per esempio la provincia di Trento aveva proprio rinunciato del tutto, cioè non solo Colf e Badanti ma del tutto, la provincia di Bolzano solo Colf e Badanti, sì. No? Se non sbaglio, cioè sì, avevamo dato questa notizia la settimana scorsa, Nico. Sì, ecco, le quote di queste province, poi come vengono distribuite? vengono distribuite nelle altre aree del paese. Grazie, diciamo, Nico. Allora, sentiamo un po' che cosa ci possono dire i nostri esperti. Giulia, attorno da lei, se ha una visione appunto insieme. Il Ministero del Lavoro, in modo particolare, ci ha fatto sapere che la ridistribuzione avverrà proprio sulla base della provenienza delle territoriale delle certo, domande. Certo, ovvio, perché se ci sono tantissime domande in Lombardia, zero in Lazio, domande certo, in Lombardia ovvio, e 20 in Basilicata, è ovvio che le quote saranno spostate tutte in gran parte sulla Lombardia. Proporzionalmente, quindi insomma il criterio sarà quello, che mi sembra anche assolutamente ragionevole. Allora andiamo al tema che vi dicevo, il contratto di lavoro. Tommaso Siracusano, perché questo è un aspetto di cui lei si occupa anche sulla Guida del Sole di questa mattina, e insomma non è che noi possiamo così per cortesia chiamare e richiamare un lavoratore straniero con la promessa vaga di farlo lavorare in qualche maniera. E no, insomma, per fare questa procedura prevista molto specificatamente appunto nel decreto flussi, che chiaramente debba essere sottoscritto un contratto di lavoro molto serio, con tutte le caratteristiche economiche che si intendono riconoscere appunto al lavoratore. Chiaramente per quello che riguarda Colf e Badanti ce n'è uno assolutamente preciso, così come in tutti gli altri settori, no? Certo. Assolutamente sì, anzi io direi che a monte il ricorso, nel mio caso a un consulente del lavoro, quale io sono, è più teso a dare un corretto inquadramento e una corretta informazione all'azienda, ma anche alla famiglia che vuole assumere il collaboratore, piuttosto che una priorità che, come abbiamo sentito anche da Giulia, in effetti per l'invio a pacchetto forse può essere negativa piuttosto che positiva. Quindi va analizzato attentamente prima quale è il tipo di attività che il lavoratore dovrà andare a svolgere. Ci sono innanzitutto l'obbligo a rispettare il contratto collettivo nazionale di lavoro, quindi la corretta individuazione del livello di inquadramento che andrà indicato in domanda, ma anche bisogna sapere che non si può scendere al di sotto di un orario minimo di 20 ore settimanali, quindi consentito un part time ma con un minimo di 20 ore settimanali. È possibile anche un'assunzione a tempo determinato, nel qual caso andranno ben individuati le motivazioni previste dal decreto legislativo 368 e quindi rispettate. Va rispettata anche una retribuzione minima, che è quella contrattuale, che comunque, ove fosse inferiore, non può scendere al di sotto dell'assegno sociale, che nel 2011 era di 417,03 euro. Ma c'è poi anche eventuali motivi ostativi all'inoltro della domanda. Per esempio, l'azienda non può avere in essere procedure di cassa integrazione o non deve avere effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti la richiesta, ovviamente per qualifiche equivalenti. Quindi voglio dire, ci sono tutta una serie di condizioni che vanno attentamente valutate prima ancora di predisporre la domanda. Esatto, direi. Anzi, ce n'è anche un'altra importante. Per esempio, il datore di lavoro deve verificare anche che i locali dove alloggerà il lavoratore posseggano il certificato di idoneità rilasciato dall'ufficio tecnico del comune dove è ubicato l'immobile, per cui il datore di lavoro è chiamato a fare un controllo anche su questo. E ce ne sono anche tanti altri, ve li indicheremo dopo i suggerimenti per chi è in viaggio. C'è una bella domanda al 349-238-6666 di un ascoltatore o ascoltatrice che chiede: una cooperativa sociale di servizi di assistenza domiciliare con badanti può fare richiesta di badanti dal decreto flussi di quest'anno? Dottor Giulia, lo chiedo a lei, perché qua appunto ci si chiede se effettivamente la pratica possa essere avviata solamente da parte di un datore di lavoro per un unico lavoratore, oppure anche per gruppi di lavoratori, come in questo caso. Addirittura un'azienda... Per quanto riguarda la possibilità di chiedere più di un, in questo caso Corfo, comunque di un lavoratore, logicamente bisogna considerare il reddito. In questo caso è una cooperativa, se non ho capito male. Sì, sì, sì. E quindi la cooperativa può richiedere, sulla base logicamente del proprio, niente dire, reddito, fatturato, e quindi sulla base anche del movimento che potrà avere. E quindi su questa base potrà poi eventualmente fare la richiesta specifica con i singoli moduli. Siracusano, c'è un altro aspetto. Chiaramente magari molti lavoratori stranieri che sono già qua nel nostro paese da qualche tempo vorrebbero approfittare di questa situazione per fare una sorta di ricongiungimento familiare, anzi tutt'altro che una sorta, un vero e proprio ricongiungimento familiare. Ci sono dei casi in cui ovviamente queste persone magari chiedono di regolarizzare congiunti che vivono all'estero, magari ad amici che possono appunto così avviare la pratica, fare la registrazione sul sito del Ministero dell'Interno, compilare appunto la domanda, insomma tutto questo come si può gestire? Perché poi sappiamo benissimo che magari il Ministero dell'Interno ovviamente non avalla queste procedure, perché quella di cui stiamo parlando in decreto flussi non è una sanatoria, e questo deve essere molto chiaro, e però insomma sono situazioni per la verità diffusissime. Innanzitutto va chiarito che il ricongiungimento familiare, così come previsto dal testo unico sull'immigrazione, non è soggetto alla procedura flussi, quindi è libero. Quello che si verifica nei fatti è una simulazione di ricongiungimento per quei familiari, ad esempio figli maggiorenni, che non rientrano nella procedura vera e propria di ricongiungimento, per cui è bene dare questa informazione anche al fine di evitare di inoltrare domande che andrebbero a occupare posti in graduatoria, magari sottraendoli a chi invece ne ha diritto, perché il familiare lo posso ricongiungere a prescindere dai flussi. Nel caso in cui lei ipotizzava dell'amico piuttosto che del familiare che presenti la domanda per far venire in Italia un congiunto, e lì è chiaro che semplicemente va verificato che abbia comunque i requisiti innanzitutto reddituali, ma anche dell'alloggio cui accennavamo prima, dopodiché sarà una vera e propria procedura regolare. Poi nei fatti sarà agli organi vigilanti verificare che questi si estrinsecano in un regolare rapporto di lavoro. A tal proposito è importante ricordare quello che il Ministero dell'Interno, contentamente al Ministero del Lavoro, nella circolare ha nel richiamare in effetti la precedente circolare del giugno 2010, quella sugli stagionali, ha esteso l'obbligo da parte del richiedente, il cittadino extracomunitario, di accompagnare quest'ultimo allo sportello unico per l'immigrazione a sottoscrivere il contratto di soggiorno, nonché ad effettuare entro 48 ore, questo è importante, la comunicazione obbligatoria e instaurare in effetti il rapporto di lavoro, cosa che è un filtro importante per evitare appunto di fare la domanda, far venire in Italia l'extracomunitario e poi lasciar cadere lì la cosa e avere dei tempi incerti e creare possibilmente lavoro irregolare. Ecco, questa cosa che lei ci ha precisato, la seconda tappa, quella praticamente dell'incontro fra lavoratore e datore di lavoro davanti al sportello unico per l'immigrazione, è toccata anche dalla guida pratica del Sole di questa mattina, perché in sostanza questo incontro per la sottoscrizione del contratto è una sorta anche di risposta alla domanda d'ingresso che per molti lavoratori che appunto avevano lo stesso aderito al decreto flussi del 2007 non si è verificata, ma il Ministero mi sembra che abbia precisato che la mancata risposta alla domanda d'ingresso presentata nel 2007 non impedisca anche di accedere al decreto flussi di quest'anno. Ma che senso ha fare due volte lo stesso percorso, la stessa procedura, Siracusano? E in effetti non avrebbe alcun senso se le procedure si esaurissero il loro iter nei tempi previsti. Purtroppo però la situazione è quella di cui abbiamo appena detto, pertanto comunque ritengo anche correttamente il Ministero non ha escluso queste persone dal poter presentare ulteriore domanda, perché se poi la precedente venisse per un motivo o per l'altro non accettata sarebbe stato, ritengo, non corretto non dare questa possibilità. No, questo è vero, però insomma dal 2007 ad oggi, se nessuno ha contestato anche la domanda precedente, segno che così insomma diamo per assodato il principio del silenzio assenso, non lo so, ma questa è una mia interpretazione, speriamo di non far arrabbiare nessuno al Ministero. Ancora un paio di domande e poi dobbiamo già salutarci. Benedetto, Monza Brianza, buongiorno. Sì, buongiorno signora. Senta, voi avete parlato adesso, buongiorno a tutti, avete parlato che non è una sanatoria, ma in effetti mi sembra che è una sanatoria mascherata, nel senso che queste persone si sa che sono persone che sono già qua in Italia. Però intanto comunque, qualora anche questo fosse, Benedetto, devono ritornare nel paese d'origine e aspettare che il permesso di soggiorno venga loro regolarmente attribuito, quindi poi non è che possano stare qua in questo frattempo, anche se ci sono venuti, questo mi sento di poterlo dire liberamente. Quindi rapidamente? A cosa si va incontro nell'eventualità che queste persone, tornando nel loro paese di origine, insomma, non possano più rientrare, sapere che sono clandestine, ecco, tutto qui. Giulia. No. Praticamente è questo, perché la cosa consigliabile è che tutte le persone prima del 31 di gennaio rientrino nei propri paesi, evitando di poter incorrere in sanzioni che poi inevitabilmente non farebbero rilasciare il visto d'ingresso in Italia per motivi di lavoro. Devo dire che però insomma quelli che anche, come dire, sono già qua in Italia sono addestratissimi sulla procedura e se ne stanno già tornando al proprio paese, magari soprattutto quelli che hanno più o meno abbastanza la convinzione, a prescindere da come andrà il click day, di poter ottenere appunto il permesso di soggiorno, perché evidentemente hanno già individuato con sostanziale certezza quello che potrebbe essere il datore di lavoro definitivo per loro. Comunque, allora, io purtroppo non ho altro spazio per altre domande, adesso intanto andiamo alla nostra rubrica previdenziale, poi vedo se riesco a fare proprio l'ultimissima i nostri ospiti. INPS, per saperne di più. E sta continuando la nostra collaborazione con l'INPS, l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, che appunto ci spiega le parole della previdenza, e oggi vi spieghiamo il concetto della domanda di disoccupazione ordinaria non agricola da presentare via web. Dal prossimo mese di marzo, la domanda di disoccupazione non agricola potrà essere presentata esclusivamente online. Non sarà più possibile utilizzare la carta. La domanda online potrà essere inviata direttamente dai cittadini collegandosi con il sito internet dell'istituto www.imps.it, seguendo il percorso: al servizio del cittadino, autenticazione con PIN, invio domande di prestazioni a sostegno del reddito, cessazione rapporto di lavoro, disoccupazione ordinaria. Il servizio utilizza automaticamente i dati presenti negli archivi dell'istituto ai fini dell'istruttoria e del calcolo della prestazione. In caso di dati inesatti o incompleti, il cittadino può intervenire per la loro correzione prima della liquidazione della presentazione. Oltre al sito internet, sarà possibile utilizzare anche il numero verde 803-164 o sarà possibile avvalersi degli intermediari autorizzati come i patronati. Come non detto, non ho più tempo per fare nulla. Grazie a Pino Guglia delle ACLI, patronato ACLI, responsabile servizi immigrazione, al nostro consulente del lavoro, esperto del Sole 24 Ore, Tommaso Siracusano. Se non vi abbiamo risposto, non siamo riusciti a farlo a tutti, naturalmente collegatevi al sito www.ilsole24ore.com/, cioè la barra di traverso, click day, inviate lì le vostre domande, gli esperti del Sole 24 Ore vi risponderanno domani sul quotidiano e nei prossimi giorni sul sito. Intanto grazie per essere stati con noi. Salvadanaio torna domani. Buona giornata. Salvadanaio.